dei fiori, amore mio, ti comprerei. Se fossi più compito ed educato, mostrando con la mia galanteria un'estrazione di media borghesia. Auguri, buona Pasqua, scriverei, magari su un biglietto con due cuori, cercando qualche frase divertente, come si usa fare tra signori. Ma io non conosco Pasqua, le feste comandate, proprio non riesco a credere che il 31 di dicembre mi debba divertire. Più del 21 aprile. Provate a togliere a un borghese il calendario, lo lascereste il triste senso orientamento, guardandovi negli occhi cercherebbe di sapere se quel giorno deve ridere perché è festa nazionale, o se deve essere triste ma paura di sbagliare. La soluzione è semplice, quel borghese piangerà sempre per il timore di ridere nel giorno del 2 novembre. La soluzione è semplice, quel borghese piangerà sempre per il timore di ridere nel giorno del 2 novembre. Scusami cara, mi son lasciato andare, eppure avevo tutta l'intenzione di usare le parole più gentili per ricamarle dentro a una canzone. Ma lascio a dei poeti diplomati, ti giuro cara, a me sembra un po' cretino far le canzoni con parole uscite dalle etichette di un cioccolatino. Ma stiamo bene in guardia da questi gran signori che giocano ai poeti, che parlano d'amore, mentre nel mondo tanta e tanta gente muore. Perciò mia cara, non è il tempo di cantare come qualcuno amori morti e cimiteri, perché la nostra vita non ci è stata regalata, se stiamo a questo mondo è per tirarlo avanti con forza e prepotenza verso la libertà. La strada giusta ci indicherà questa parola d'ordine: regola sociale, vincio capitale, lotta di classe, vincono le masse. Regola sociale, vincio capitale, lotta di classe, internazionale.